questo caldo che ci soffoca. E che se guardi bene vedi l'Africa. E tu lo sai, questa è casa mia. Da un passo di fandango è una buleria. Andalusia, blu cobalto e rosso sangue. E dune di sabbia dentro le mutande. Una gitana mi legge la mano, mentre affogo in un tinto de verano. Vento, fuoco e contraddizioni, che di lavoro io scrivo canzoni. Come se fossi un artista, con le palle di un precario e l'hangover di una festa. Voglio tutto e non mi basta. Voglio un camion di coraggio e una vita di vantaggio sul mondo. Nero fumo e luna araba sulla via da Tarifa verso Malaga. Sotto questa luna che ci illumina, e che se guardi bene vedi l'anima. E tutto questo è già magia. Nel mezzo di Triana c'è una teteria. Andalusia, mentre il cielo è un ricamo di stelle. Penso a Colombo e alle sue caravelle. Volando vengo, volando vai, tra quello che ho avuto e quello che vorrei. Ma amore mio, siamo liberi, io e te in questa notte da brividi. Come se artista, con le palle di un precario e l'hangover di una festa. Io voglio tutto e non mi basta. Voglio un camion di coraggio e una vita di vantaggio sul mondo. Mi cuerpo alegre camina.